Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Riguardo alle polemiche su Santoro, non ritengo che sia indecente chi parla delle indecenze. Indecente per i cittadini onesti è chi ha speculato sulla costruzione di edifici ignorando le leggi antisismiche, o chi non pianifica a dovere gli interventi pur sapendo di trovarsi in condizioni di pericolo. Indecente sarebbe stata una legge sul cosiddetto piano casa, che avrebbe reso più snelli i controlli sulle norme antisismiche. Ed è indecente che ci sia voluto l'ennesimo terremoto e le ennesime vittime per farla modificare. Indecente in Italia è la politica irresponsabile e collusa col malaffare. E indecenti sono i politici che si indignano, prendendosela con i pochi giornalisti che li smascherano. Giancarlo Como. Tutti addosso a Santoro. Ma perché dobbiamo stare zitti tutti rispetto a un interrogativo che sotto sotto in molti si pongono, ma che solo in pochi hanno il coraggio di manifestare pubblicamente? Si potevano limitare o attenuare i danni umani di questa grande tragedia? Qualcuno ha sottovalutato la situazione nei giorni che hanno anticipato la forte scossa? L'organizzazione dei soccorsi, non la buona volontà delle persone, è davvero adeguata agli eventi? Forse sono solo domande che più opportunamente andrebbero poste. È una questione da analizzare in un momento successivo e non nell'immediatezza della tragedia, quando è il tempo di infondere l'adeguato incoraggiamento a tutti coloro che sono impegnati sul campo per assistere la popolazione. Ma in ogni caso una valutazione critica è da considerare sempre criticamente e non con l'insulto e con metodi surrettiziamente censori. Aniello. Il problema Santoro può riassumersi così. Trasmissioni quali Porta a Porta, Ballarò e Anno Zero sono rubriche di informazione, oppure trasmissioni di dibattito politico e quindi di scontro di opinioni diverse, di critiche e di approvazioni. In altre parole, si espongono fatti oppure opinioni. Poiché pare che non siano telegiornali, ma trasmissioni di dibattito politico con ospiti di diverse opinioni e tendenze, non ha senso parlare di critica eccessiva. La critica non può, per principio, essere eccessiva, tranne che nella forma offensiva, perché tale è rispetto a una data persona, mentre per un'altra la stessa critica può non esserlo. In altre parole, si tratta di commenti e non di fatti obiettivi. Se Santoro ha voluto mettere in risalto gli aspetti negativi dell'azione della Protezione Civile durante il terremoto dell'Aquila, va ritenuto da sanzionare se ha esposto fatti non veri o contraffatti. Nulla invece gli si può rimproverare istituzionalmente se ha espresso giudizi negativi su fatti reali. Per questa evenienza c'è il democratico rimedio della replica e il giudizio va riservato all'opinione pubblica che, essa sì, può condannare con l'abbandono dell'ascolto. Ogni altra via che voglia punire le critiche, eccessive o no, a fatti veri è assurda, incostituzionale e poliziesca. Vulnera la libertà di pensiero che è essenzialmente libertà di critica. Giuseppe. Nessuno nega che nelle responsabilità del terremoto si debba tenere conto della speculazione, della corruzione, eccetera. Ma nella trasmissione di Santoro tutto questo era soltanto strumentale e serviva da contorno ai servizi che attaccavano chiaramente la Protezione Civile, magistralmente sfruttati dalla regia, grazie alle inquadrature e in studio dal conduttore, che aveva un chiodo fisso, quello di dimostrare la sua tesi. Secondo lui, tutti gli altri mezzi di informazione si erano sbagliati, anzi erano in malafede, dato che non avevano fatto da cassa di risonanza a quel tale che vuole sorvegliare i terremoti ed è in grado di predirne esattamente data, ora e luogo, con un'attendibilità scientifica simile a quella dei rabdomanti che cercano l'acqua con la verga. E infine, ciliegina sulla torta, le barzellette del satiro di studio, soprattutto quelle in cui si prevedeva l'aumento della volumetria dei cimiteri, grazie all'aumento dei morti causati dal terremoto. A 3 giorni dal disastro, con i morti ancora caldi, non c'è pluralità di informazione che tenga, checché ne dica il presidente della commissione di vigilanza, perché non si è trattato né di completezza di informazione, né di satira, seppur cinica, ma semplicemente di abuso di libertà di informazione. Salvatore. Un commento sulla proposta di destinare agli interventi a favore dell'Abruzzo una parte del 5 per 1000 del gettito IRPEF. È già previsto che l'8 per 1000 dei contribuenti che optano per lo Stato possano essere destinati per calamità naturali. Perché allora dare possibilità di destinare il 5 per 1000 alle associazioni di volontariato e non fare invece una campagna di firme per destinare l'8 per 1000 allo Stato? Inoltre, per effetto della legge sui rimborsi elettorali, lo Stato fino al 2011 continuerà ad elargire ai partiti doppi rimborsi, quelli delle elezioni 2006 e quelli delle elezioni 2008. I rimborsi per le elezioni 2006 li stanno prendendo partiti mai esistiti, o scomparsi, o che stanno scomparendo. DS, Margherita, Rosa nel Pugno, AN, Forza Italia, Udeur, Nuovo PSI, eccetera. Perché i politici, invece che farsi vedere all'Aquila ed esprimere il loro cordoglio o fare collette da 1000 euro, non fanno una bella legge bipartisan che destini alle popolazioni colpite dal terremoto almeno i contributi relativi alla legislatura del 2006, già esaurita da qui al 2011? Michele, Perugia. Molte persone hanno fatto notare una presenza massiccia del presidente Berlusconi e di quasi tutti i ministri in carica di questo governo in terra di Abruzzo. Il presidente Berlusconi, in particolare, era sempre presente. Sicuramente ha una mania di apparizione, ma ascoltando le sue affermazioni mi sono detto: beh, parla bene. Mettiamo anche un pizzico di malignità nella cosa. Apparire per fare una bella impressione. Ok, mi va bene, chiunque di noi ci tiene a fare bella figura nella propria vita professionale e privata. Ma parlare con la gente, rassicurarla del suo intervento personale e di quello del governo, in un modo così esplicito, trovo che questo sia un gesto importantissimo che una persona come lui non può permettersi di non rispettare. Se lui non rispettasse quanto assicurato sulle bare dei deceduti del terremoto, chiunque di noi potrebbe mandarlo a casa in meno di un secondo, rinfacciandogli ogni apparizione, ogni parola, ogni gesto fatto in Abruzzo. Devo anche dire che secondo me la presenza del governo in modo così massiccio è invece rassicurante. Non siamo in periodo elettorale, quindi non vedo il motivo per cui alcune persone in Italia debbano sempre fare polemiche. Il fatto che il governo sia presente è segno di stima e rispetto, prima verso le persone che soffrono e non hanno più niente e verso chi ha perso i propri cari, e poi verso tutte quelle persone che a vario titolo lavorano per aiutare i più bisognosi. Dico anche che non ho memoria di una presenza così costante di un governo, di destra o di sinistra, sui luoghi di un disastro. E questo fa apparire l'Italia, agli occhi del mondo, forte e dignitosa. Un'Italia che piange i propri morti, ma che c'è, viva e presente. Se il governo non ci fosse stato, li avrebbero insultati. Se è presente, li attaccano comunque. Sono convinto che queste esternazioni provengano sempre da una parte sola. Un forte abbraccio agli amici dell'Abruzzo. Roberto. Per prevenire eventuali altri disastri economici a causa di terremoti in Italia, sarebbe opportuno che le norme che si stanno per applicare per i controlli degli edifici, per stabilire le corrette norme di costruzione anche antisisma, venissero estese, oltre che alla provincia dell'Aquila, anche a tutte le altre a rischio terremoti nel nostro paese. In tal modo, lavorando oggi su questi comuni che adesso sono in salute, si potrebbero accertare eventuali responsabilità e far pagare multe agli eventuali colpevoli, in modo da ripagare i danni per il terremoto dell'Abruzzo. Piero, Cosenza. Scrivo per segnalare che il criterio del massimo ribasso negli appalti pubblici ha consegnato una serie innumerevole di impianti e costruzioni al limite dell'accettabilità e si sono riscontrati fallimenti anche molto eclatanti. Purtroppo, però, tutti questi impianti sono stati consegnati con un livello qualitativo pessimo. Esistono impianti idraulici in Italia che supportano pressioni di esercizio anche di 64 bar, con diametri elevati, sui quali sono state montate apparecchiature di origine cinese con elevati limiti funzionali. Dovremo aspettare un disastro come quello del Vajont per iniziare a capire che, invece di infarcire di burocrati le direzioni dei lavori, sarebbe il caso di creare una classe di tecnici che abbia le basi e l'esperienza, ma soprattutto la responsabilità per gestire tali opere? Simone. Ho seguito con vero interesse gli argomenti riguardanti la proposta di abolizione delle province. Io ho vissuto alcuni decenni in paesi nordici, dove non ci sono le province, e posso confermare che è molto meglio per le condizioni economiche dei cittadini. Qui dove abito io, in un'area di 6 chilometri, ci sono 4 comuni dotati di amministrazioni proprie. Tanti doppioni, tanto sperpero, tante auto municipali inutili, mancanza di tempestività, tante spese dovute a incompetenza e in parte anche al menefreghismo. Questi 4 comuni sommano in tutto circa 15.000 abitanti. In Germania, dove ho vissuto 10 anni, simili casi di comuni confinanti che si trovano vicinissimi tra di loro sono stati eliminati. Qui da noi ogni piccolo comune ha i propri mezzi, camion immondizia, ruspe e altri mezzi tecnici. In Germania e Austria i vari comuni sono consorziati e con gli stessi mezzi raccolgono rifiuti per tutti. Mauro. Considera il lavoro l'unica fonte di ripresa economica. Come possiamo pensare qualcosa di diverso dopo quanto accaduto negli ultimi mesi? Proprio il lavoro, che è stato tanto bistrattato, tanto sottovalutato, deve tornare al posto che gli spetta e con esso le persone che vi stanno dietro. Basta generalizzare, basta criminalizzare, basta sottovalutare, basta accettare sacrifici su questo fronte. Ogni lavoratore è sul posto di lavoro per dare il massimo, per contribuire al benessere sociale. Il ragionamento che si è voluto far passare, ad esempio quello che afferma che ogni dipendente pubblico è un fannullone, è un ragionamento che deve essere ricondotto nel giusto alveo e non può essere accettato supinamente. Cosa di meglio se non questa crisi, per rimettere al centro il lavoro in ogni sua forma, seppur con tutti i suoi distinguo e le sue particolarità? Il lavoro è al centro e chi si permette di utilizzare casi singoli per denigrare il lavoro, tout court, di milioni di persone, dovrebbe essere passibile di forte reprimenda. È infatti solo attraverso la tutela del lavoro che si possono mantenere i livelli di sviluppo e di consumo nel nostro paese. Non è certo permettendo che gli attuali livelli occupazionali crollino che possiamo programmare un futuro. Alessandro. Avete visto la nuova campagna affissioni del PD? In un poster, quello con l'Unione Europea, sotto tutti i loro concetti, scrivono Berlusconi no, come se si trattasse di una pubblicità comparativa. Non avevo mai visto una campagna politica che menzionasse la controparte. Hanno inventato l'anti-berlusconismo comparativo. L'altro poster che ho visto è forse anche peggio. Recita Disoccupati, più forti noi, più forte tu. Adesso il PD è diventato il partito dei disoccupati. Ma non hanno capito che chi è disoccupato se ne frega di mandare i soliti al Parlamento europeo? Tanto per quelli, sia di destra che di sinistra, il loro movente è lo stipendio da parlamentare che prenderanno e la gente queste cose le ha capite. Claudio. Vorrei segnalare come a fronte delle aggressive tariffe promozionali di Trenitalia sul percorso Roma-Milano, che peraltro avranno termine il 30 giugno prossimo, nel frattempo il costo della tratta Firenze-Roma è balzato da 36,10 a 39,90 euro, aumento del 10,52%. Che la tariffa amica con riduzione del 20% e acquisto sino a 24 ore, con costo del biglietto a 28,90 euro, è stata abolita e sostituita dalla tariffa con riduzione al 15% a tariffa minima di euro 36, purché acquistata al massimo 7 giorni prima. Si tratta di un aumento del 24,56%, quindi. E si sta parlando della seconda classe. È il mercato bellezza? Sarà. Però non ho sentito nessuno dire alcunché in proposito. Tutti presi e affascinati dalla disputa Trenitalia-CAI? Roberto, Firenze. Ho pensato ad una soluzione che potrebbe salvare la capra referendaria insieme al cavolo leghista. Riunire le varie votazioni in un unico giorno, tenendo separata la parte politica da quella referendaria. Tecnicamente l'elettore si presenta alla sezione con la sua tessera elettorale, va a registrarsi e riceve le schede per le europee e le eventuali elezioni locali. Va in cabina, vota, riconsegna schede e matita e gli viene restituita la tessera ed è libero di andarsene a casa. Se vuole votare il referendum si rimette in coda, si registra nuovamente e rifà tutta la trafila. In questo modo l'effetto traino sul quorum si attenua, in quanto le due votazioni divengono indipendenti. Se la votazione è unica, l'elettore riceve tutte le schede assieme ed è difficile che rifiuti quella sul referendum. In precedenti tornate molti referendari e sono stati pochissimi gli elettori che hanno rifiutato una o più schede, peraltro meravigliandosi di essere in scarsissima compagnia. Con la doppia registrazione l'elettore può fare la sua scelta e ci sarà anche un maggior ossequio alla privacy. Basterebbe uno scrutatore in più per poter garantire uno svolgimento sufficientemente rapido delle operazioni di voto e di successivo scrutinio, quindi con un costo aggiuntivo per lo Stato inferiore ai 2 milioni. Detto questo, chi glielo fa fare al PD di insistere per l'Election Day? Sono contenti di dare la maggioranza assoluta e irremovibile alla PDL? Mario. Alla luce dei drammatici avvenimenti che hanno così duramente provato l'Abruzzo, non è uno scandalo pensare di continuare ad assecondare il furbesco e squallido capriccio della Lega Nord e gettare via 400 milioni di euro per non fare l'Election Day con il referendum. Quei soldi, in una situazione di crisi quale l'attuale, non potrebbero essere utilizzati per aiutare le popolazioni colpite. Giorgio. Caro Giorgio, lei pone un problema che molti politici, sia dell'opposizione che della maggioranza, hanno messo all'attenzione del governo. La risposta in apparenza è facile e doverosa. Risparmiare quello che si può risparmiare e dare il massimo di assistenza a chi si è salvato dalla tragedia abruzzese. Ma, se mi permette, bisogna fare un passo in più. E quindi fare in modo che le zone colpite dal terremoto ricevano tutti, ma veramente tutti, i soldi necessari, al di là di scelte politiche, come la data delle elezioni, che in apparenza non c'entrano nulla con gli impegni straordinari per il dopo terremoto. Certo, se il governo deciderà di non accorpare le elezioni, dovrà spiegare perché non è possibile risparmiare. E la decisione potrebbe rivelarsi un autogol, perché potrebbe far crescere il malessere degli italiani verso la politica e quindi costituire un elemento in più per partecipare e far vincere il referendum. Comunque, una corretta gestione delle risorse dello Stato deve essere attuata in ogni caso, ancora più in situazioni di emergenza. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.